Benvenuti e benvenute a tutti e a tutte le ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Questa è Tracce di Cinema. Oggi non sbaglio la data perché ho proprio il computer aperto, acceso. È giovedì 21 maggio, sono le ore 15:09. Siamo un po' in ritardo, ma più o meno nei tempi previsti della nostra trasmissione. Con me in studio Federico e Andrea di Niente da Vendere, e non c'è oggi David, ma insomma faremo le sue veci, speriamo egregiamente. Ci proviamo. Anche se lui non c'è. E oggi il nostro film è un film straordinario, secondo me è uno dei più bei, uno dei miei preferiti, è L'odio di Matteo Kassovitz. Vi racconto un po' la storia. Dopo una notte di guerriglia urbana con la polizia, scatenata dalla notizia del grave ferimento di un giovane ad opera di un poliziotto, i giovani della periferia parigina si svegliano in stato di assedio e, scossi e smaniosi di vendetta, i tre protagonisti, Vince, Said e Hubert, si aggirano in cerca di un'occasione per scatenare la loro rabbia. Vince si è impadronito della pistola che un poliziotto ha perso durante gli scontri della notte precedente e con essa viene inutilmente dissuaso da Hubert, vuole fare giustizia uccidendo un poliziotto. Il loro vagabondare senza scopo dura una ventina di ore, dalle 10:30 del mattino fino alle 6 del mattino successivo. Passano dalla periferia fino al centro di Parigi, dove sono evidentemente fuori posto, e poi, perduto l'ultimo treno della notte a causa di una permanenza a suon di botte in un commissariato, solo all'alba fanno ritorno nella loro zona. Arrivati al loro quartiere, Said e Vince vengono fermati dalla polizia. Ad uno dei poliziotti, mentre minaccia con la pistola Vince, sfugge un colpo che colpisce il ragazzo in pieno viso, uccidendolo sotto gli occhi di Said. Hubert, che aveva assistito alla scena da lontano, si avvicina e punta la pistola che Vince gli aveva poco prima affidato verso il poliziotto. Il poliziotto punta la sua pistola a sua volta verso Hubert. Si sente fuori campo un ulteriore colpo di pistola a questo punto, ma non si sa chi dei due ha sparato. La discesa verso il basso è finita o continuerà, e a questo punto il problema non è la caduta ma l'atterraggio. Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta ma l'atterraggio. Par tous les moyens nécessaires, réparer l'offense, la ville est quadrillée, les rues sont barrées, les magasins pillés, les lascars chirés. Moi j'ai toutes les caractéristiques du mauvais ethnique, antipathique, sadique, allergique aux flics, même dans la foule, je porte la cagoule, les plus jeunes m'écoutent dans l'école de la rue, je suis leur prof, premier cours, lancer le cocktail molotov, sans faire de propagande, Abdoulaye nous demande la plus belle des offrandes, le message est passé, je dois. Pas de paix sans que Babylone paie, est-ce que tu le sais? Sacrifions le poulet. Pas de paix sans que le poulet repose en paix, est-ce que tu le sais? Sacrifions le poulet. Pas de paix sans que Babylone paie, est-ce que tu le sais? Sacrifions le poulet. Pas de paix sans que le poulet repose en paix, est-ce que tu le sais? Ouais. Dans cette masse qui s'agite, je vis et ça m'excite. Tout crame autour de moi, les pompiers ne viennent pas. Même par la fenêtre, les gamins veulent en être. En maître au CRS chou qui se lance à l'assaut. Matraque à la main, dans les quarts du vin, des fourgons blindés, des flics surarmés. Mon putain de quartier ressemble au territoire occupé. J'engraine, j'engraine à la mauvaise conduite. Certains ne m'écoutent pas et tentent la fuite. Il y en a qui voltigent, boum, les gars veulent le prestige. Comme le font les médias, le peuple fume et part. Le monde est à moi, je suis dans les mantanas. Même le temps est mystique. J'ai devant moi tous les flics, ce soir j'ai pas d'usine. Ce soir j'ai pas de fusil. Et monsieur Stone, il laisse la place à Bugsy. Avant de laisser faire mes pulsions meurtrières, j'adresse au Tout-Puissant mes dernières prières. Mais demande à Dieu de rester vivant. Et j'appelle le diable pour faire couler le sang. Pas de paix sans que Babylone paie, est-ce que tu le sais? Sacrifions le poulet. Pas de paix sans que le poulet repose en paix, est-ce que tu le sais? Sacrifions le poulet. Pas de paix sans que Babylone paie, est-ce que tu le sais? vide ma mère, la guérilla dégénère. Sirène, fume les gènes, ça sent le souffle. Plus d'oxygène, oh. Le sol dans le gouffre. La foule se disperse, personne ne veut partir. Il veut le paradis, mais ne veut pas mourir. Trop tôt pour festoyer, trop tard pour reculer. Ce soir la lune est pleine, ce soir je suis en veine. Et tous les groupes j'assène, font mal à l'indigène. Déjà la même scène, de Fleury à Oni, voilà si elle freine. Ce soir j'ai la santé. Pas de bête sans que Babylone paye, est-ce que tu le sais? Sacrifions le poulet. Pas de bête sans que le poulet repose en paix, est-ce que tu le sais? Sacrifions le poulet. Pas de bête sans que Babylone paye, est-ce que tu le sais? Sacrifions le poulet. Pas de bête sans que le poulet repose en paix, est-ce que tu le sais? Sacrifions le poulet. Ainsi soit-il. Sacrifice des poulets des Ministère Amer. Ministère Amer è un gruppo francese formato da due amici del liceo, ma non vi parleremo tanto di questo pezzo, ma quanto di questo gruppo, quanto di questo pezzo. Sacrifice des poulets è un pezzo controverso del gruppo, di questo gruppo rap, che racconta una notte di scontri nella periferia di Parigi. Nel 95 il Ministero dell'Interno ha perseguito il gruppo per istigazione a delinquere a causa delle loro dichiarazioni durante un'intervista su un mensile in cui avevano dichiarato: abbiamo detto nel nostro disco che bisogna bruciare una stazione di polizia e sacrificare il pollo. Che cosa c'è di più normale? E la lotta tra giovani e poliziotti intensificherà e sarà sempre più violenta. Dopo il processo il gruppo non ha più potuto fare concerti e si è separato. Beh, questo pezzo non fa parte esattamente della colonna sonora dell'odio, ma della raccolta di brani, di tracce, che è stata appunto realizzata, ispirata al film. Quindi se la cercate all'interno della colonna sonora dell'odio non la troverete, ma la troverete nella raccolta che si chiama appunto Musica ispirata al film Odio. Il quartiere di Mughé ha vissuto una nottata sconvolta dalle sommosse. Un centinaio di giovani ha letteralmente tenuto in stato d'assedio il commissariato di zona sino a notte inoltrata. I duri corpo a corpo hanno causato 14 feriti tra le forze dell'ordine. 33 dimostranti sono stati arrestati. I rivoltosi hanno devastato gran parte del centro commerciale, oltre ad alcuni edifici, per poi disperdersi intorno alle 4 del mattino. I disordini fanno seguito alla brutalità di un ispettore del commissariato di Mughé. Due giorni fa l'uomo ha gravemente ferito un giovane del luogo fermato per dei controlli. L'ispettore è stato sospeso dal suo incarico. Ma Abdel Isha è sempre in osservazione all'ospedale Saint George, dove le sue condizioni sono considerate gravi. Questo era Bob Marley e la traccia si chiama Burning and Looting ed è il primo pezzo musicale nel film che appunto apre il film. E Burning, con le immagini della polizia che si prepara agli scontri, perché mettono le inferriate sui blindati. Sì, e le immagini sono quelle reali che sono avvenute degli scontri avvenuti tra la polizia e i giovani all'estrema periferia parigina tra il 1986 e 96. E questo pezzo fa parte di un bellissimo album di Bob Marley che è Burning, che è l'ottavo ed ultimo album della band reggae giamaicana The Wailers, pubblicato nel 73, dopo il quale la band si scioglierà e prenderà il nome di Bob Marley and the Wailers. In questo album si incita apertamente alla ribellione più che alla religiosità, anche se qui proprio in questo album compaiono i primi elementi della dottrina Rastafari. E volevo anche raccontarvi un po' come è nata l'idea per Matteo Kassovitz di girare e di fare questo film. Pensate che aveva soltanto 25 o 26 anni quando insomma l'ha scritto e poi lo ha girato. L'idea appunto viene dall'uccisione di un giovane zairese, Makom Mbole, che nel 1993, mentre era tenuto in custodia dalla polizia, ammanettato a un termosifone, fu ucciso da un agente della gendarmeria con un colpo sparato a bruciapelo. L'ufficiale disse di essere stato deriso dal giovane e di essersi sentito offeso dalle parole di Macomè, per cui per spaventarlo le aveva mostrato la pistola e mentre lo stava minacciando gli era partito un colpo accidentalmente. E oltre a questo episodio drammatico e doloroso, Kassovitz dice di essere stato ispirato anche dal caso di Malik Hussein, che è un 22enne manifestante studente morto dopo essere stato picchiato a morte, il caso di dire, dalla polizia antisommossa dopo una manifestazione di massa nel 1986 alla quale lui non aveva neanche partecipato. Quindi insomma, pensate un po'. Non siete che degli assassini, facile sparare, non abbiamo mica armi noi, abbiamo solo pietre. Allora, questo pezzo non è neanche questo compreso nella colonna sonora, ma l'abbiamo voluto mettere lo stesso perché comunque è abbastanza emblematico nel film e soprattutto il protagonista, che il ragazzo che screccia alla finestra del palazzo nel film, è proprio Cat Killer, che è un disc jockey hip hop francese di origine marocchina, molto molto insomma importante nella scena musicale hip hop, no Andrea? Sì, è molto importante, anche perché insomma in questo pezzo diciamo riesce a mescolare la tradizione francese con Edith Piaf, insieme appunto all'attualità degli NTM, un gruppo francese, e Notorious B.I.G., cantante americano hip hop, insieme a KRS-One, anche lui un cantante hip hop, classico esempio di scratching e di mixing di un DJ che riesce a mettere insieme varie cose creando insomma una novità assoluta. Stavamo parlando dell'attualità comunque di un film come L'Odio. Eh sì, perché proprio in questi giorni nelle banlieue francesi è in atto ancora proteste anche molto forti, perché insomma c'è stato recentemente l'assoluzione di poliziotti francesi accusati non tanto dell'omicidio ma quanto di aver spinto dentro una cabina elettrica due giovanissimi abitanti della banlieue e portandoli alla morte, che sono stati assolti anche per questa cosa. E insomma, quindi appunto le banlieue francesi sono ancora in rivolta. Frena, dico, dacci un taglio, ma è assordato. Parla in un modo come se fosse un incrocio tra Mosè e Paperizia, lascia stare, c'hai solo da perdere, dammi retta. Di un po', sai, se Abdel muore perdiamo un amico o no? Sì. Se lui fa fuori uno di loro, non sarà che è un poliziotto di meno o no? Beh sì. È solo, sei completamente solo, lo vedi, solo. Non potrai mai ammazzarli tutti. Che cazzo ti prende? Ti metti pure a fare le prediche adesso? Ti senti tanto superiore da dirmi cosa è giusto e cosa è sbagliato, eh? Perché? Perché? Perché non stai mai dalla mia parte? Perché stai sempre con quei rotti? Fermo lì. Chi sarebbero i rotti in culo, forza? Se solo fossi andato a scuola, sapresti. Allora, chiamalo! Sono cresciuto per la strada, e beh, che c'è? Che c'è? Dimmi, che c'è? Sì, per la strada, vuoi saperlo che mi hai insegnato la strada? Mi hai insegnato che andare l'altra guancia, te lo trovi al culo, per cui lasciami in pace, non mi capisci, cazzo. Questo era Isaac Hayes con That Loving Feeling, sempre dalla colonna sonora dell'Odio, che ci introduce all'ospite di questa settimana, Paolo Campana, che è uno dei curatori della prima edizione del CU Sound International Music Film Festival, che abbiamo sentito alla trasmissione visionaria d'inizio di questo mese, e lì abbiamo creato questo collegamento. Gli ho detto della trasmissione Tracce di Cinema, per cui oggi mi piaceva averlo con noi, e così è stato. Ciao Paolo, ben ritrovato. Ciao, ben ritrovato a te, buongiorno di nuovo ai nostri ascoltatori. Qui fa freddo, spero di lì, da quelle parti no. No, qui siamo già a una estate anticipata. Qui si è ritornati a marzo invece. Si vede che il festival CU Sound ha fatto tornare voglia di fresco, di andare al cinema di nuovo, di chiudersi, di fuggire gli spazi esterni. Oh, non abbiamo parlato del luogo, si parla di Torino. Si parla di Torino, giustamente, nell'estremo nord. Senti Paolo, tu parlando, quando ti ho comunicato di questa mia intenzione, mi hai detto che non solo è uno dei tuoi film preferiti, ma che tu hai vissuto per un periodo nella banlieue parigina. Ma in realtà è proprio il mio film preferito per questa ragione qua, nel senso che attraverso quel film ho rivisto tutta una serie di atmosfere che avevo vissuto anni prima, proprio abitando a Saint-Denis, una delle banlieue forse più infuocate dell'interland parigino. Sono vissuto lì quasi un anno, e quindi questo nel 91-92, vedere questo film nel 95 mi ha riportato non solo indietro negli anni, ma mi ha dato modo di ripercorrere, insomma, tensioni e atmosfere molto molto molto difficili di quella parte di mondo geografica, sì, ecco, sì. E soprattutto io ho studiato in un'università, molti di voi magari la conosceranno, Paris 8, Parigi 8, la ex università di Vincennes, trasferita appunto dal sud di Parigi al nord all'inizio degli anni, alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, che è uno dei punti di riferimento per quanto riguarda l'università di cinema parigina. E la cosa incredibile di questa università è che è calata non solo in un contesto della banlieue, ma ci sono alcuni insegnanti, sono stati alcuni insegnanti all'interno dell'università che hanno sempre avuto un rapporto molto diretto e vivo con le gang e le band locali. Uno tra tutti è Georges Lapassade, un netto musicologo conosciuto per i suoi studi sulla pizzica e sulla tarantolata italiana, e particolarmente sul ragamuffin, sulla nuova ondata di ragamuffin che insomma attraverso tutta l'Italia all'inizio degli anni, alla fine degli anni 80 e inizio degli anni 90. Esisteva quindi una sorta di terreno molto fertile perché venisse sviluppato un discorso anche musicale. Ricordiamo una delle band più seguite delle banlieue parigine, gli NTM Supreme, ecco. Questo è un po' il mondo in cui ho vissuto per diversi mesi. Sì. Mondo fatto anche di tensione sociale, ecco. Sì. Stavamo parlando qui tra noi, sicuramente un riferimento che cinematografico che ci è venuto in mente rispetto alla nottata dei tre protagonisti ai Guerrieri della Notte, e poi ci sono anche degli espliciti riferimenti hollywoodiani, per esempio il protagonista che parla davanti allo specchio scimmiottando Toro Scatenato, Taxi Driver, Robert De Niro in Taxi Driver, e insomma, rivedendolo oggi quel film è molto marcato questo omaggio e questo patrimonio legato al gangster movie hollywoodiano di un certo periodo. Beh, sicuramente c'è anche un certo gioco di citazione, sì, no? Quasi un po' tra il colto e lo scherzoso, è anche un po' una strizzata d'occhio, se vogliamo, no? Siamo già in un'epoca postmoderna dove è tutto un po' riciclato, ma io lo vedo abbastanza come una sorta di secondo me l'intento di questa citazione è abbastanza fresca, non è di scimmiottamento o quant'altro. anche, penso sia anche tutti, positivo, ecco. Sì, sì, sì, anche tutte le conversazioni tra il demenziale e il comico tra loro rimanda molto a Tarantino, risentiamo già di un certo tarantinismo, se sì, vogliamo, 95 sì. Già visto insomma i primi film di Tarantino affacciarsi sul panorama, però lo vedo tutto molto in chiave ironica, sì, ecco, quindi sì, sì, sì, sì. Se vogliamo non c'è solo una strizzata d'occhio al cinema di Tarantino, ma anche alcuni elementi di certa cinematografia, se vogliamo, più che hollywoodiana, newyorkese, più indipendente. Senti, dal punto di vista musicale, Paolo? Dal punto di vista musicale non c'è dubbio che è un po' la somma di tutta una serie di tendenze che da anni in Francia si agitavano, nel senso che è ovvio che in un film sull'hip hop ci debbano essere anche degli omaggi alla musica black in genere, al funky. Giustamente tu poco fa avete ascoltato un brano di uno dei protagonisti di quello che potrebbe essere definita insomma la black music tipica della black exploitation, no? Sì, sì. Voglio dire, ci sono tutta una serie di derivazioni anche reggae che sono parte di questo humus da cui poi nasce questa sorta di corrente, di scossa elettrica che è l'hip hop francese, che è un hip hop, se vogliamo, militante né più né meno di quello degli assalti di band come gli Assalti Frontali, ecco, dell'epoca, forse ancora più corrosivo, ecco, perché noi per esempio a Parigi abbiamo NTM Supreme e nel sud della Francia, a Marsiglia, abbiamo IAM, che forse sono un po' meno corrosivi di NTM Supreme, ma musicalmente, timbricamente, sono molto sulla linea Public Enemy. E comunque nel contesto parigino, a livello di metropoli europee, è forse l'hip hop più meticciato? È l'hip hop sicuramente più meticciato, perché era anche un momento in cui, non dimentichiamo, i Negresvert all'inizio degli anni 90 erano nel pieno della loro carriera. Così come i Mano Nera, da cui poi è nata tutta la filiazione Manu Chao, eccetera eccetera, per cui già questi due band sono un esempio di meticciato notevole, ecco. Se poi andiamo nelle periferie, questa sorta di mélange culturale è ancora più evidente e anche però più estremo, e questo si vede in quello che sono poi i ritmi, l'uso delle rime, una sorta di hip hop estremamente asciutto che non lascia nulla alla musicalità. L'unico, se vogliamo, un po' più musicale che strizza un po' più l'occhio alla melodia è MC Solar, ecco, anche un po' meno militante, se vogliamo, più edulcorato. E poi un'altra band dell'epoca, una band che comunque era secondo me un po' simbolo di questo meticciato, erano gli Alliance Ethnique, come dice lo stesso nome, ecco, tutto un... Sì, sì. Senti, a tutti gli effetti questo hip hop è stato un po' la colonna sonora delle rivolte delle banlieue? Sicuramente in Francia sì, sicuramente in Francia sì, nel senso che se voi atterravate all'epoca a Saint-Denis, praticamente passeggiavate tra muri graffitati lunghi centinaia di metri, ecco, e ogni notte questi muri venivano ricoperti e reinterpretati nuovamente, cioè si aveva proprio l'impressione di stare dentro qualcosa di molto vivo e mutante. Senti Paolo, un gioco che facciamo con gli ospiti ogni puntata, ogni settimana, è quello di chiedere un suggerimento rispetto a un film di cui ameresti sentire la colonna sonora magari radiofonicamente. Ma avete citato I Guerrieri della Notte, per me rimane un capolavoro e adoro quella colonna sonora. Bene, bene. Ok, allora scriviamo questa annotazione. Io ti ringrazio, Paolo, e sicuramente avremo modo di risentirci. Grazie a voi e buona continuazione a questo punto con queste rime un po'

allora loro sono Zapp and Roger, questa è More Bounce to Once. Zapp è un gruppo musicale funk formato nel 78, noto anche come Zapp Band, noto anche per la partecipazione di Roger Troutman, ben noto nell'ambito musicale, che ha caratterizzato molta produzione hip hop nel futuro, insomma, perché lo ricordiamo tutti quanti in California Love di Tupac, perché ha caratterizzato la sua musica dall'uso della talk box, di questa distorsione della voce. E voglio dire ancora due cose sul rap francese. Il rap francese si è caratterizzato moltissimo dalla presenza di un'emigrazione molto presente in Francia, che ha creato moltissimi gruppi hip hop. Però appunto, diciamo, a differenza di altri paesi come l'Inghilterra, l'emigrazione di questi appunto abitanti delle banlieue non è stata, diciamo, così facile, anche se appunto pure in Inghilterra non è stato facile, ma diciamo gli abitanti delle banlieue francesi non si sono assolutamente integrati e si trovano in lotta perenne contro il governo francese e contro la società di questo paese. Tornando a Roger Troutman, ha avuto una storia anche molto brutta, perché insomma è morto, ucciso dal fratello, insomma in una situazione veramente molto brutta. Però insomma appunto anche Isaac Hayes, che abbiamo sentito prima, è stato usato da molti film, è stato usato anche da molti gruppi hip hop come Roger Troutman e gli Zapp. Infatti insomma in questo film c'è molto presente l'hip hop, anche in questi pezzi che sono funk, ma sono appunto i pezzi da cui verranno campionati molti molti brani. Invece io vi volevo dare qualche informazione sul film. Volevo dirvi che nella versione originale francese i dialoghi del film sono in verlan, che è un tipico gergo parigino che consiste nel rovesciare le sillabe di una parola per crearne una nuova, no Andrea? Esattamente. Stavi raccontando una... Sì, l'esempio più conosciuto in questo momento è Stromae, il cantante belga, che appunto che il suo nome vuol dire maestro, che ha solamente invertito le sillabe, e da lì si capisce come funziona questo verlan francese. Sì. E poi volevo dirvi, che volevo raccontarvi che quando il film è uscito ha scosso un po' gli animi di tutti, ecco, soprattutto quelli dei politici francesi e dell'allora primo ministro Alain Juppé, che organizzò una proiezione speciale del film chiedendo ai membri del suo dipartimento di partecipare. A quel punto gli agenti della polizia presenti voltarono le spalle alla proiezione in segno di protesta contro il ritratto della brutalità della polizia rappresentato dal film. E inoltre quando ci fu la passerella al Festival di Cannes, che vide vincere insomma Kassovitz con il suo film La Palma d'Oro, i poliziotti di guardia sulla scalinata del Palais al Festival di Cannes, appunto all'apparizione del regista e del suo gruppo, hanno ostentatamente voltato le spalle. Les enfants les égarés sont comme des feuilles et l'écran leur offre l'encre de la violence à la recherche d'une identité, d'une vérité, de la frontière entre le clair et l'obscur. L'image prend désormais le contrôle de la personnalité. La fiction devient réalité et la réalité un cauchemar. C'est la 25e image et ça se fait beau carnage. C'est la 25e image. C'est la 25e image. Choisis bien ton personnage. C'est la 25e image et ça se fait beau carnage. C'est la 25e image. Choisis bien ton personnage. Arrivé sur la télé, rien ne m'échappait. J'étais fasciné par les truands et la vie qu'ils menaient. Ils faisaient le mal, mais étaient toujours bien sapés. Plein de femmes et tout ce qu'ils voulaient. Être méchant m'était facile. J'ai donc décidé d'avoir le premier rôle dans le scénario dont je rêvais. J'étais trop jeune pour comprendre où j'allais. Agir sans réfléchir, c'est exactement ce que je cherchais. Je sentais la puissance affluer en moi au fur et à mesure que je serrais le 45 entre mes doigts. Combien de fois l'ai-je sorti? De la plus grosse à la plus petite embrouille, je faisais parler mes douilles. Seulement je n'étais pas le seul nom à avoir pris une illusion pour une suggestion. Il fut plus rapide, putain c'était pas dans mon film. Il a coupé le film, je tombe dans le vide. Il n'y a qu'un pas de la fiction à la réalité. J'en ai fait deux, puis je suis en train de crever. Je m'envole, mais mon corps reste au sol. Aveuglé par une image, j'ai choisi le mauvais rôle. C'est la 25e image, et s'inspire de vos carnages. C'est la 25e image. C'est la 25e image, choisis bien ton personnage. Tu pourrais finir en cage. C'est la 25e image, et s'inspire de vos carnages. C'est la 25e image. C'est la 25e image, choisis bien ton personnage. Tu pourrais finir en cage. Oh yo, y'a alerte à la télévision. Oyo, la réalité dépasse la fiction. Oyo, nous tâchons d'éviter toute confusion. Tu marches dans ma rue, c'est mieux qu'un film d'action. Dis-moi non. Oyo, alerte à la télévision. Oyo, la réalité dépasse la fiction. Oyo, nous tâchons d'éviter toute confusion. Tu marches dans ma rue, c'est mieux qu'un film d'action. Dis-moi non. Écoute l'histoire du jeune qu'on appelle Andy. Situation classique, il habite Marseille ou Vitry. Tout le monde dit qu'il a quelque chose en lui. Qui vous dit je suis taré, alors me fais pas d'envie. Tout ça est bien banal, mais sous l'effet de certains produits. Il visionne ce qu'a fait, c'est puis il s'identifie. Hey, yeah, hey, c'est la panique dans la Tessie. Al Pacino a sorti son fusil. Si t'as vu la fin de film, tu sais comment ça finit. La vie est bien plus forte qu'un film de Fellini. Dis-moi non, Boyo, y a l'air à la télévision. Boyo, la réalité dépasse la fiction. Boyo, tâchons d'éviter vos confessions. Tu marches dans ma rue, c'est mieux qu'un film d'action. You know. Viens ce rayonnement obscur. Quand un enfant s'assied devant sa télé, c'est un épais écran de fumée qui se développe dans sa tête loin de la vision réelle d'un humain. C'est fait du quotidien, mais est-ce la pensée du spectateur naïf? S'il devient comme une victime de malin spectateur, la veille vierge ventile se tache de noir, absorbe la violence à l'instar d'un buvard. Flingue, viol et pulsion pour la création d'un vrai cauchemar en deux dimensions. Hollywood en état de choc et paniqué, braqué par des caractères qu'elle a créés. Parce que le fond de héros n'a rien à voir avec le stéréotype du quartier. Donc il est rejeté mais de mauvais. Bénéficie d'un respect facile à désirer quand on vit dans la pauvreté. Angoisse ténébreuse que désormais je vois face à la peur de l'anonymat. 24 images de scène violente, la 25e sera réelle. C'est la 25e image, les inspire de vos carnages. C'est la 25e image. C'est la 25e image, choisis bien ton personnage. Tu pourrais finir en cage. C'est la 25e image, les inspire de vos carnages. C'est la 25e image. C'est la 25e image, choisis bien ton personnage. Tu pourrais finir en cage. C'est la 25e image, les inspire de vos carnages. C'est la 25e. C'est la 25e image, choisis bien ton personnage. Tu pourrais finir en cage. E questo era la 25e image di IAM e Nutea. Siamo sempre a Tracce di Cinema. Il film è L'Odio, bellissimo anche questo pezzo rap, insomma proprio bello, no Andrea? Sì sì, niente male, è un ottimo gruppo gli IAM. Sì, sono una band francese di Marsiglia, precisamente che nasce sempre più o meno nello stesso periodo anche degli altri gruppi musicali che abbiamo sentito nell'89, ed è composta da tutti i nomi che di ispirazione egiziana: Akhenaton, Cheops, Imhotep, Kefren. Questo acronimo ha diversi significati: l'invasione è arrivata da Marte, Imperial Asiatic Amen, e comunque il loro tema centrale nei loro pezzi è appunto l'Africa. Sono forti le allusioni a questo paese bellissimo, e in particolare appunto verso l'antico Egitto. La loro canzone Le Tam Tam de l'Afrique è stata uno dei primi successi rap francesi ed anche la prima canzone ad affrontare esplicitamente la questione della schiavitù. Hanno uno stile rap unico in cui mescolano ritmi e testi francesi con influenze egiziane del Medio Oriente. Come gruppo hanno sempre cercato di sottolineare il loro impegno di sovvertire le nozioni di superiorità razziale e promuovono con forza un'alleanza multirazziale come alternativa alla vecchia politica francese. Gran parte dei temi nella loro musica sono reazioni alle azioni del partito politico Fronte Nazionale guidato da Jean-Marie Le Pen. L'impegno antirazzista di IAM è molto forte, la loro visione va oltre il confine francese abbracciando e sostenendo la lotta comune contro ogni forma di razzismo in tutto il mondo. Hanno collaborato con Wu-Tang Clan e insomma sono nel 2000 con il loro album, nel 2000 Nutea, che insieme a IEM ha firmato questo pezzo, ha venduto 700.000 copie e insomma anche lei è un artista abbastanza importante in Francia, piuttosto reggae che hip hop. Eh sì, mi domandavo se tra le loro influenze ci sarà anche Sun Ra, probabilmente, insomma, e hanno avuto appunto un grosso successo anche come solisti, e appunto, come dicevi te, sono stati chiamati da GZA a partecipare in un album composto da vari gruppi hip hop da tutta Europa, e insomma, non è poco. Goes on, Ripple, ancora la colonna sonora dell'odio. Matteo Kassovitz ha detto durante un'intervista, quando gli hanno chiesto se avesse paura di suscitare odio anziché risolverlo facendo un film così, insomma, pessimista addirittura, ha dichiarato: quando si fa un film si pongono delle domande, non risolvono i problemi. Io faccio cinema, non politica. Tocca a voi trovare le risposte che il film può suscitare. Un film è un film e rimane tale. Se si vuole fare la politica o la rivoluzione, bisogna avere il coraggio di prendere le armi, non fare il cinema. Se un film riesce, oltre a divertire e a far prendere coscienza allo spettatore di certe cose, tanto meglio. Cerchiamo di fare un film per divertire, mettendoci delle idee, una coscienza politica, ma un film non provocherà mai una rivoluzione. E credo che sia molto pericoloso di chiedere a gente di spettacolo quello che pensano della politica. Sono gli ultimi a cui fare queste domande. Se nelle loro canzoni e nei loro film mettono il loro pensiero, tanto meglio, ma non sono in grado di dare risposte politiche. Quello è il lavoro dei politici. Quando è stato ucciso il ragazzo algerino, nessuno si è mosso. C'erano solo 300 persone a manifestare per strada. Invece sono andati a vedere il film in 2 milioni. E se la gente si fa commuovere di più del cinema che della realtà, vuol dire che preferisce il comfort alla rivoluzione. Ma come on a des prisonniers sont ouvriers, chômeurs ou sans logis. Combien de cœurs sont incarcérés? Dites-moi simplement dans l'histoire le nombre de politiques qui étaient condamnés. Christophe, Mathieu, Mohamed, Diable ou le petit Thibault sont tombés sous les balles. Les porcs qui ont tiré sont bien au chaud. Et nous, on nous reproche de ce n'est la famille qui pas à la sûreté de l'État quand la crise existe. La jeunesse n'a pas besoin d'assassins pour voir que l'État non était toutes ces conneries. Mais on a envie de le shooter à ministre. Zoom, zoom, le underground s'exprime. Pendant que jour après jour l'État assassine. Car l'État assassine, un exemple, Marie-Couzé-Kim. Ring-pong, la police est corps à corps. Car l'État assassine, ma commune, on a été victime. Ring-pong, la police est corps à corps. Car l'État assassine, la loi de l'ennemi. Ring-pong, paix à toutes les victimes. Paix à toutes les victimes. Paix à toutes les victimes. Vous voulez qu'on respecte votre état policier? Vous nous dites que tous les flics ne sont pas mauvais, que si la police n'était pas là, ce serait pire encore, que la société a besoin de vous sans compter ses morts. Mais c'est fini, le peuple se réveille et nous demandons des comptes. Le pouvoir judiciaire doit prendre au sérieux ce que l'on raconte. L'amour des ambiances quand la bavure frappe. La police et l'armée sont des gangs organisés dont je prends mes marques. Un exemple de comportement dans les émeaux du 18ème. Ils frappent les jeunes, les vieux, les enfants afin que l'ordre règne. Nous sommes basés pour l'échappée des enculeries politiques, financières, policières. Le business des affaires est prospère quand ils se règnent dans les couloirs des ministères. Et pendant qu'assassins est censuré quand ils s'expriment.

that you want to go night I'm dreaming of you. All day I dream to you. All night I'm dreaming of you. All day I dream to you. El, Zap Mama, gruppo musicale belga fondato dall'artista Marie Dolne, sempre per la colonna sonora del film L'Odio. Beh, che dire, siamo arrivati alla fine, abbiamo sforato un po', però avevamo anche iniziato un po' in ritardo. Africa, Attica Blues non c'è, non sono ancora arrivati. Quindi io vi ricordo che per sostenere questa radio libera dal 1977 siamo a 38 anni. E poi devo dire anche un'altra cosa dopo, ricordare la festa, per sottoscrivere a questa radio libera dal 1977 senza partiti politici, senza pubblicità e tenuta a testa alta da grandissimi redattori e DJ, potete mandare una sottoscrizione al conto corrente postale 61804001 intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185, Roma. Sosteneteci e domenica dalle 18. Dalle 18, questa domenica qui a via dei Volsci ci sarà la festa della radio per appunto i 38 anni di Radio Onda Rossa. Il 24 maggio festeggiamo 38 anni con un piccolo aperitivo, ci sarà anche qualcosa da mangiare, ci sarà anche musica con Patato, musica dalla periferia, folk. Studi aperti. Esatto, studi aperti, insomma venite tutti e tutti. E sì, la festa è giù in strada. Vi aspettiamo, venite e ricordatevi sempre di sostenere questa radio. Ricordiamo anche l'indirizzo di posta elettronica, che è traccedicinema@ondarossa.info, e prima di darvi l'appuntamento alla settimana prossima. E volevo anche ringraziare appunto i redattori di questa trasmissione, anche le redattrici di Radio Onda Rossa e la redattrice di questo spazio, insomma, che mi hanno invitato qui in questo. Ma grazie a te Andrea, è stato un onore adesso con tutti questi complimenti che ci facciamo fra di noi. Va bene, insomma, comunque continuate ad ascoltare Radio Onda Rossa. A giovedì prossimo, sempre dalle 15 alle 16. È la storia di una società che precipita e che mentre sta precipitando si ripete per farsi coraggio. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio. Mon esprit est déjà parti en yoku. Ils disent de moi que je suis devenu fou. Le carré double S n'est pas du tout tout tout comme tu le crois, malgré les apparences. Le 3 quarts le cosse à la caïra. Mon cerveau a déjà élaboré des plans de char. Doté d'été d'une habilité intarissable, une connaissance cœur tracé. Moi t'emmène dans l'autre sens. Je n'ai plus aucune chance de traver de mort naturelle. Icou, toujours, toujours de plus belle. Suivi à la trace et activement recherché. Toujours sur ma trace, tant pis, je veux quand même des nages. Et je vis, toujours plus haut. Oui, le deal et le gun, c'est notre dernier nespi. Je ne veux plus tenir les murs de notre thé. Si, ne crois pas que je vais faire un stage à Bois d'Arcy. Trop bête de béton pour un vulgaire larcin. Je ne veux béton que pour quelque chose qui vale bel et bien la peine. Béton pour avoir tué 3 ou 4 personnes à peine. Qui aurait voulu du mal à ma première mi-fa, à ma seconde mi-fa, Tintin, Woody, Delta. Mais n'oublie pas, ce qui fait la différence entre toi et moi, c'est qu'il y aura tout le temps derrière moi, ma smala. Oh, comme un kiss. Un K-I-S-S, fils du fils impliqué dans le biz. Quand j'étais jeune dans la rue, j'ai su que dans la banlieue, pour s'en sortir de vos êtres vicieux, c'est la vie facile. Nesby et Dean, tu deviens une menace pour toute la ville. Un gangsta style où je me montre habile. Le païen flip quand je triche, il a peur que je lui rote casse son shit. Quoi que non, ça c'est l'heure du business. Pas de promesses, on m'a en cash en espèces. Car j'aime la thune et je veux faire fortune sans travailler comme un yinche et subir le stress. Les kiss démons peut-être à l'œil, en tout cas sont jamais venus à mon seuil. Pas de preuves mec, non pas que je sois honnête. Mais le TIN est vicieux et malin. Pourtant le quartier en a baisé plus. En va et vient, en va et vient. Entre la maison et la zonzon, putain j'y ai pensé. Aucune envie de plonger, surtout que ma mère me disait le quartier pourrait aussi t'inspirer de tromper. Un quotidien mal, ça sur les bancs de cette cité. Le Val fourré, tu en as sûrement entendu parler. Dans la soirée, quand les halls d'entrée sont bondés, aux heures de pointe, impossible de respirer. Moi, et j'ai longtemps opté pour ce choix qui te surprend. Ma porte la Yaska, 3 cacos la Kaira. Qu'est-ce qu'il y a sur les points? Baisse ça! Pourrait poser le pour, le compte pour me rendre compte qu'en fait mon esprit part en couille. Fou dans la trouille, il n'en faut pas. Devant, derrière, à droite, à gauche, regarde si on ne te voit pas. Cool sûr de toi, fais tes affaires, tape tes fans, tu style. C'est bien viscère, s'il insiste, tu insistes, tape le vis. Il est bien compressé. Joula à la kiss, joula à la kiss. Ouais, mais c'est un peu léger. Ouais, mais la prochaine fois, ça servirait mieux, ok? Rock, carotte, carotte, car comme un tebet, tu t'es blessé, phasé, phasé, phasé. Il t'avait partout, t'as une tacaille à ton genre. Ah. Mais tu ne le diras rien, tu te la joues, tu ne fais rien. Mais tu ne le diras rien, ne joue pas les malins. Amante, la loi du plus vicieux et le respect. Emblème de l'équipe, des contrôles te respectent. Eh, bah qui vous nous a parlé comme ça? Moi? Encapané, parlez-moi énervé. Bah tout le monde qui a passé, c'est couillon qui fait nous net. Next to Barou, je le suis depuis que je suis tout petit. Ce doit être ma couleur qui favorise mon. Je vis un place pour le funky style. L'homme qui vient de la Martinique. Trois cartes, la racaille. Rêve de vivre plus haut. Depuis le banditisme. De l'argent plein les chevaux. J'atteins le paroxysme. Pas de soucis, hein. Oui, des espèces dit. Pense à du genre de lesbi. Pour devenir très chéri. Je sais que je ne suis pas un honk. Donc, mais ton intelligence au service du crime n'est pas quelconque. Ainsi, j'ai d'abord des plans de cash. Bras de ce cas. Sous la méduse et des tarbes. Le nez sous barou devient fouve de souffle. Le coup, le devient les faibles. Je l'avoue, mon esprit par en yeux. Sous mon corps, ça stylie. Ne chier. Pas de 10 minutes, face à Mr. Funky.